So roots, because I am, this book is about the theory and the praxis, is like how the theory. Ho scelto la parola radici perché questo libro tratta della teoria nella prassi, è incentrato su come la teoria ha bisogno di mantenersi in comunicazione con la prassi e la prassi a sua volta deve rifletterla sviluppando la teoria. Così le radici sono la base, le fondamenta del metodo, le radici sono la filosofia che è dietro al metodo, la politica, il concetto teorico nel suo insieme. Le ali, invece, sono quel che chiamiamo il moltiplicatore di questo metodo. Ci definiamo uccelli perché dobbiamo volare per portare questo metodo, portare questa prassi in diversi luoghi, diverse persone per condividerla con loro. Ma per volare dobbiamo avere un riferimento, sapete? E questa è come una metafora di come noi potremmo volare, andare in altri posti, condividere la nostra esperienza senza perdere la nostra base, le nostre radici. È come una specie di sfida, allo stesso tempo è una specie di metafora per una prassi dialettica. Deve essere profonda per certi aspetti, ma allo stesso tempo flessibile per condividere diverse culture, diverse situazioni, differenti temi o diverse circostanze. Come pensi che il teatro degli oppressi possa risolvere i conflitti attraverso la rappresentazione dell'oppressione? Actually, theater cannot solve problems. Like theater is not the one that is solving anything. Beh, in realtà il teatro non risolve conflitti. Il teatro è una possibilità per noi di rappresentare asceticamente quello che ci sta sfidando e allo stesso tempo il teatro è uno spazio aperto alla possibilità del dialogo. E quando apriamo spazio al dialogo possiamo comprendere meglio la complessità del problema, possiamo trovare possibilità per superare il problema. Naturalmente per risolvere il problema bisogna agire, non solamente sul palcoscenico, nonostante il teatro stesso ci possa ispirare, può darci le diverse possibilità, può ispirarci persino ad immaginare delle soluzioni, perché uno dei problemi del nostro tempo è la poca possibilità per l'immaginazione. Non abbiamo la possibilità di immaginare perché nessuna soluzione cade dal cielo. Le soluzioni vengono dalla riflessione, le soluzioni vengono dalla comprensione. E così dobbiamo capire, dobbiamo riflettere e dobbiamo inoltre confrontare prospettive perché magari io ho una possibile soluzione, magari tu un'altra, magari entrambe possono aiutarci nella direzione di stimolarci ad agire insieme. Incontrarci con le nostre prospettive, unire le prospettive ed unirsi nell'azione e così il teatro è parte della soluzione che dà, ma non la soluzione in se stessa. Come pensi che il teatro degli oppressi abbia influenzato la tua storia personale? Personally, us is a lot. It's like everybody that is doing this kind of theater that is stimulate us to reflecting about our everyday life. Personalmente ha contato molto, come per chiunque si dedichi a questo tipo di teatro che stimola la riflessione sulla nostra vita quotidiana, ma non semplicemente la vita quotidiana a livello personale, la vita quotidiana nel contesto sociale, come posso connettere i miei propri problemi personali con la società dove mi trovo. C'è un forte impatto nella comprensione dei problemi e un forte impatto nel riconoscere come non isolati, perché quando condividi un problema, quando condividi una sfida e trovi che altre persone hanno lo stesso problema, altre persone hanno la stessa sfida, è una cosa che aiuta a percepire se stessi non come individui, ma come parti di una società. E questo ha un grande impatto per non sentirsi isolati e per non sentirsi fragili. Puoi trovare la tua forza quando conosci altre persone che condividono gli stessi tipi di problemi, ma anche lo stesso tipo di desiderio di cambiarli. Poi c'è il come possiamo esprimerci noi quando parliamo, nel dialogo, negli incontri tra di noi. Che tipo di relazione troviamo tra gli spettatori e gli attori? As citizen, yeah, we all are citizen in our city, in our country, in the world. È la cittadinanza. Noi tutti siamo cittadini nelle nostre strade, nel nostro paese, nel nostro mondo. Siamo tutti cittadini del mondo. In questa realtà dove ci troviamo come un mondo globalizzato, sentiamo che il problema che io affronto e il problema che tu affronti non possono essere risolti se non risolvi entrambi. È come se fossero connessi perché tutte le cose nel nostro mondo sono davvero intersezionali, hanno una relazione e questo è un modo di riconoscere noi stessi come parte della società. Forse in un momento io sono sul palcoscenico e tu sei nel pubblico, ma nel momento successivo sei tu che sali sul palcoscenico. È come dire che il palcoscenico è per tutti noi, il palcoscenico non è per gente speciale, il palcoscenico è per tutti, in quanto siamo cittadini e dobbiamo essere protagonisti della nostra vita. È un po' questo il messaggio del teatro. Siamo tutti nella stessa società e dobbiamo recitare insieme nella realtà. La realtà significa la nostra azione concreta per cambiarla. Il palcoscenico è uno spazio per provarci. Proviamo durante lo spettacolo, durante il forum, durante la discussione cosa dobbiamo fare nella società, cosa dobbiamo fare come cittadini nella stessa società, così noi spettatori, noi persone. Mostriamo come siamo tutte parte della stessa storia, così dobbiamo unirci e trovare un modo di recitare insieme nella realtà.